Summertime di Elisabetta Fiorito. Ci sono cose più importanti adesso di cui dobbiamo parlare. Ci sono ancora un paio di questioni ostiche. Due ostiche. Due ostiche, sono due, sì. La prima innanzitutto, bisogna portare un chiaro di luna dentro una camera. E sì, perché piramidismo lo dice la storia. Roma Globe Theater, nella splendida cornice di Villa Borghese, ci immergiamo in questa atmosfera di un sogno, il sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare. La regia è di Riccardo Cavallo, oramai un classico al Globe Theater questo spettacolo. Riccardo, buongiorno. Buongiorno a voi. Diciamo che è un classico in partenza perché è una delle più grandi commedie di Shakespeare e di conseguenza è una delle più grandi commedie scritte dalla mente umana ed è nel nostro piccolo è diventato un classico il nostro spettacolo perché siamo al quinto anno di repliche con oltre fino ad ora 40.000 spettatori, che significa praticamente quasi 1.000 persone a sera, insomma, ecco, quindi è stato veramente un grandissimo successo. Come articoli questo sogno? C'è Titania che fa Claudia Balboni, poi insomma tutti i vari personaggi, è molto molto difficile come commedia, anche se il Globe ti aiuta. Sì, relativamente perché è uno spazio naturalmente sui generis, nel senso che lo ricordo a chi ci sta sentendo, è uno spazio così come era concepito il teatro nel 500-600, insomma. E quindi... Diciamo che il Globe sta anche sul Tamigi a Londra ed è ricostruito come ai tempi di Shakespeare, è il teatro elisabettiano ed è una struttura in legno dove la platea era dedicata al popolo e quindi la gente, come era nel pubblico elisabettiano, si mette seduta per terra e poi invece gli spalti sono coperti perché erano quelli della borghesia oppure della nobiltà. Sì, dove c'era una gran confusione, naturalmente, perché all'epoca le commedie erano vissute più vicinamente, insomma la gente portava da mangiare, da bere, insomma, quindi succedeva di tutto. Peraltro all'epoca stavano in piedi, cioè il pubblico, diciamo, tra virgolette povero che stava nella platea era in piedi, anche se sedevano, erano tutti in piedi lì per 2-3 ore, quindi all'epoca c'era un amore per il teatro assolutamente, che poi insomma per loro erano anche lezioni di storia, erano un po' il nostro quotidiano e un po' i nostri libri di storia dell'epoca, insomma il teatro spesso diventava questo. Quindi stavano in piedi come concerti pop o ai concerti rock. Ecco. È vero. Allora, in questo sogno alterni varie visioni come vuole Shakespeare eccetera, però qual è la difficoltà come regista? Ma dunque intanto la prima cosa, appunto quello che dicevamo prima, è lo spazio, perché è uno spazio semicircolare molto particolare a cui noi non siamo abituati naturalmente, e quindi la prima cosa è fare i conti con questo spazio, che tra l'altro intimidisce perché insomma, è splendido e quindi va bene, comunque è un grande piacere naturalmente. E poi il secondo problema è te lo pone Shakespeare, lì ci sono diversi linguaggi che si intrecciano perché c'è la corte, c'è il linguaggio dei giovani, c'è il linguaggio dei fauni della notte, Oberon, Titania, e c'è il linguaggio povero degli artigiani, i cosiddetti, quelli sono stati soprannominati comici in qualche modo, insomma, ecco, quindi sono diversi linguaggi che si incrociano, diverse storie che poi arrivano ad una unica conclusione apparentemente positiva, perché poi in verità c'è una grande malinconia dietro questa scommessa. Allora poi ci spiegherai perché dici questa cosa, ma la scommessa all'inizio è tra Oberon e Titania, e noi diamo il benvenuto a Claudia Balboni, una attrice che abbiamo intervistato tante volte ma sempre ci emoziona. Claudia, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, a un certo punto tu, vestita in modo molto particolare, no? Con dei veli, mi ricorda, appari e hai questo dissidio con Oberon. Che succede sulla scena? Dunque, intanto volevo raccontare un piccolo precedente. Cioè, noi ci siamo posti il problema proprio di come rappresentare fate, fauni, elfi, eccetera. Normalmente addirittura c'è una corte di fate, una corte di elfi per Oberon e Titania. Non è semplice, perché in realtà il problema grosso è far immaginare al pubblico che questi esseri siano davvero evanescenti, che abbiano un qualcosa di diverso dai comuni mortali, eccetera. E allora ci siamo inventati con la costumista, che è Manuela Romagnoli, questa idea che gli elfi e le fate fossero una via di mezzo tra animali e persone. Faccio questo piccolo accenno perché noi abbiamo infatti dei palchi da cervi, da capricorni sulla testa, eccetera. E siamo spesso appunto velati, eccetera, ma abbiamo anche un modo che, insomma, con Riccardo abbiamo pensato di muoverci, che è un modo molto lento, cioè invece di andare veloci o volare siamo come a rallenti, soprattutto per questo riguarda me e Oberon, quindi è come se scivolassimo sulla scena. Devo dire che, insomma, mi sembra che la cosa piaccia, che venga fuori molto bene. Allora, andiamo sul dissidio che hai con Oberon. Allora, il dissidio nasce dal fatto che c'è questo giovane fanciulletto, un piccolo paggio, che io vorrei tenere per me, che Oberon vuole per sé. Quindi praticamente da qui si scatena una lite che significa per i comuni mortali piogge, tempeste, maremoti che noi provochiamo appunto con le nostre baruffe. E fino a quando Oberon, stanco di tutto questo, non mi mette sugli occhi un filtro d'amore per fare in modo che io mi innamori del primo essere vivente di qualsiasi natura egli sia, per farmi un dispetto e potermi così rapire questo paggetto che lui tanto vuole. E questo accade, insomma, la storia praticamente è questa. Si intreccia con quella di questi artigiani di cui parlava prima Riccardo, che stanno provando una commedia da portare eventualmente a corte. Anche gli artigiani incappano negli scherzi di Puck, che è uno dei fauni, il servo, diciamo, di Oberon, il quale è stato trasformato in somaro, e io mi sveglio e mi innamoro di questo somaro. Quindi c'è tutta questa parte appunto tra realtà e fantasia molto bella. E l'accenno alla malinconia di cui parlava Riccardo è proprio questa, sta praticamente nell'ultima fase dello spettacolo, quando il povero artigiano, che era stato sì trasformato in un somaro, ma che in fin dei conti aveva vissuto questo sogno pazzesco di vivere con gli elfi e le fate, innamorato di una bellissima fata, eccetera, eccetera, si risveglia. E questo accade anche a noi attori, che finiamo lo spettacolo e ci risvegliamo. E uscite fuori. Però c'è una parte che è umana, cioè ci sono dei giovani che si incontrano, sì, in questo bosco. Certo, allora, l'intreccio è complesso, molto complesso. Uno di questi giovani è Elena, se non sbaglio. Federica Berne la interpreta, giusto? Buongiorno. Ciao, salve. Innanzitutto bentornata. Grazie. Allora, no, sono molto felice di far parte per il quinto anno sempre di questo sogno meraviglioso al Globe, e noi sì, siamo i quattro umani rappresentanti insieme alla corte, diciamo, di Atene, dove c'è il duca che sposa la principessa Ippolita, e poi insomma ci siamo noi umani che ci dibattiamo perché ognuno insegue il proprio amore. Quindi diciamo che Elena è innamorata di Demetrio, il quale però impazzisce per Ermia, che è già fidanzata con Lisandro. E quindi Lisandro ed Ermia cercano di fuggire in questo bosco per coronare il loro sogno d'amore, e ovviamente Demetrio insegue Ermia ed Elena insegue Demetrio. Quindi in questo inseguimento anche loro incontrano in uno dei loro addormentamenti, perché questo sogno è fatto da scandito da vari addormentamenti dei personaggi, lo stesso Puck mette il filtro d'amore negli occhi del ragazzo sbagliato, per cui a un certo punto Elena si ritrova inseguita da entrambi i maschietti e si sente presa in giro. Quindi insomma, ecco, in questo complesso gioco di inseguimenti avvengono anche questi scherzi crudeli, insomma. Volevo chiedere a Federica se c'è una battuta di Elena che l'ha particolarmente colpita. Una che mi colpisce ogni volta che la dico, la penso, e riguarda proprio l'amore, è quando Elena si risveglia, tutti e quattro si risvegliano, e lei vede che di nuovo Demetrio è finalmente innamorato di lei, e lei dice: è come un bel gioiello che ho raccolto per caso in strada, è mio ma non è mio. E questa è un po' l'essenza un po' dell'amore, no? Lo trovi per caso e ti sembra che ti appartenga, però forse non ti appartiene fino in fondo. E quindi è una riflessione sull'amore che ci riguarda anche tutti noi da vicino, no? Grazie Federica, grazie Claudia e soprattutto grazie a Riccardo Cavallo, arrivato, abbiamo sentito, alla quinta edizione al Globe Theatre di Villa Borghese a Roma. Consigliamo a tutti i romani, ma a tutti coloro che sono in visita in città, di andare a vedere questo Sogno di una notte di mezz'estate, con inizio alle 21:15. Grazie. Summer Time. Allora noi ci occupiamo adesso di cinema, con il conduttore di Radio 24 Franco D'Assisti, che sappiamo conduce La Rosa Purpurea sabato dalle 17:30 alle 19 e la domenica in replica dalle 15 alle 16, e ci occupiamo di cinema per parlare di Locarno. Buongiorno Franco. Un saluto a te, Betta, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, questo festival è arrivato a quale edizione? Ma guarda, siamo ormai abbastanza in là, 64esima edizione del Festival di Locarno. In termini di anzianità se la gioca con Venezia e Cannes, questo festival che è nominato o soprannominato il più grande dei piccoli festival o il più piccolo dei grandi, perché sempre questa connotazione di grande festival internazionale, una tradizione straordinaria appunto sottolineata dalle 64 edizioni, ma una dimensione proprio come scelta di un festival molto molto agibile, molto accessibile, un festival di cinema giovane, di cinema di opere prime e seconde, di cinema nuovo, e quindi si è sempre tenuto un po' in questa posizione che ne ha fatto in realtà poi la fortuna. Che cosa bolle in pentola quest'anno? Quali sono le novità? È una pentola sugosa quella di quest'anno, un grandissimo festival di Locarno. Qualcuno in conferenza stampa ha anche messo lì l'ipotesi che ci sia forse anche un po' troppa concorrenza con quello di Venezia, che arriverà subito dopo. Per carità, le dimensioni dei due festival sono ovviamente diverse, però certo, un festival di Locarno che si apre con la proiezione in Piazza Grande. Piazza Grande è il cuore pulsante di Locarno, 8.000 persone che seguono lo stesso film in questo che è il più grande cinema all'aperto del mondo, se vogliamo. Ebbene, J.J. Abrams con il suo Super 8, questo film di fantascienza prodotto da Steven Spielberg, molto molto atteso, che appunto apre la rassegna il 3 agosto in Piazza Grande. Ah, poi quello che mischia due stili diversi, fantascienza e western. Quello è Cowboys contro Alieni, anche quello a Locarno. È azzeccato l'altro film di Locarno, Betta, anche quello tra l'altro porterà... Del tutto casualmente azzeccato. Però vedi, ci avevi preso, e tra l'altro c'è da dire che Cowboys and Aliens porterà sulla Piazza Grande niente meno che Harry Ford e Daniel Craig, i due protagonisti, che saranno a Locarno per incontrare il pubblico. Anche questa è davvero una grande possibilità per il pubblico di incontrare queste star assolute di Hollywood. Tra l'altro va detto che quest'anno il festival parla molto americano, ci sono tanti bei film che arrivano dagli Stati Uniti. Dagli Stati Uniti c'è appunto il film, verrà premiato Abel Ferrara, è davvero un festival che anche attraverso la sua retrospettiva, quest'anno dedicata, pensate, a tutti, ma proprio tutti i film di Vincent Minnelli, e quindi tutti i suoi grandi musical. Ci sarà la proiezione di Un americano a Parigi proprio in Piazza Grande, ma anche tutte le sue commedie, i suoi melodrammi, eccetera. Quindi davvero un festival che parla americano, ma che non parla, non smette mai, visto che è anche un festival ufficialmente di lingua italiana, visto che si svolge nel Canton Ticino, non smette mai di parlare anche italiano. E ci sarà infatti un film in concorso, Sette opere di misericordia di Gianluca e Massimiliano De Serio, che rappresenterà proprio l'Italia nel concorso ufficiale per il Pardo d'Oro. E quindi, come dire, da questo festival sono partiti grandi registi italiani giovani, come per esempio Saverio Costanzo con Private qualche anno fa. Proprio da Locarno cominciò la sua corsa, e chissà che non sia la volta dei fratelli De Serio quest'anno. Ecco, tu che segui tutti questi festival, che vai a Cannes, che vai a Venezia, che vai a Locarno, qual è la caratteristica di Locarno? Quello che dicevi, che si possono incontrare grandi attori vis-à-vis, mentre a Venezia arrivano su queste magnifiche gondole, su questi magnifici motoscafi, però poi non si incontra nessuno. Esatto, no, questo sì, diciamo che Locarno quest'anno veramente ha alzato il tiro in termini di star system. Detto questo, però, qualche importante attore e importante regista mondiale a livello almeno cinefilo c'è sempre. È vero che però l'accessibilità, la vicinanza e anche la gioventù di questo festival fanno la differenza. Andare a Locarno dal 3 al 13 agosto significa incontrare ragazzi di tutta Europa che arrivano. Poi sai, la Svizzera è anche questo crocicchio multiculturale e multilinguistico, per cui ci sono ragazzi che arrivano dalle aree di lingua tedesca, come la Germania, l'Austria, dal nord Europa, dalla Spagna, e significa veramente vivere una sorta di Woodstock all'aria aperta del cinema, perché c'è questa grande possibilità di Piazza Grande, il clima è molto più disteso rispetto ai grandi festival nei quali questi attori arrivano scortati da milioni di bodyguard, eccetera, e quindi si respira davvero una bella atmosfera. E non da ultimo c'è un clima anche meteorologico interessante, perché al di là delle Alpi, quando qui da noi a Milano schiattiamo dal caldo, da quella parte di solito ci sono 10 gradi in meno, quindi tutto sommato anche sotto quel profilo c'è una bella rinfrescata, insomma. Quindi milanesi, suggeriamo di andare al Festival di Locarno, e chi non può andare perché magari si trova a Roma o in Sicilia, noi consigliamo di seguire La Rosa Purpurea sabato alle 17:30, in replica domenica alle 15 con il nostro Franco D'Assisti. Grazie Franco. Grazie a te Beta, un saluto. E noi andiamo a Caltagirone, Teatri in Città, sì, proprio il 17° Festival di Teatro Contemporaneo, un modo per visitare anche dei capolavori un po' desueti, tipo Pinocchio oppure l'Orlando Furioso. Ma qual è la vostra proposta? Sentiamo allora il direttore artistico Fabio Navarra, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, grazie della vostra attenzione. Quello che inizia questa sera a Caltagirone presso la Villa Patti, un parco comunale, è la 17ª edizione del Festival di Teatro Contemporaneo Teatro in Città, che appunto organizziamo qui a Caltagirone, che quest'anno ha un unico filo conduttore che lega i sei spettacoli che abbiamo in cartellone, quello della figura del padre. In questo caso padri e patrigni della patria, padri mancanti e padri trapassati. Sei compagnie che presentano appunto i loro spettacoli, che hanno questo filo conduttore. Iniziamo proprio stasera con lo spettacolo proposto dalla compagnia La Pentola Nera, diretta da Giacomo Guarneri, che presenterà questo spettacolo Pinocchio è scaduto. Già il titolo è abbastanza infatti intrigante poi. Sì, uno spettacolo appunto che è uno spettacolo teatrale, ma anche un concerto, un'originale operazione di teatro concerto che offre una riflessione dai toni leggeri sulla società dello spettacolo e la sua trecimazione nella politica, un tema naturalmente di grande attualità in questo periodo. Ecco, ma perché Pinocchio è scaduto? Questo ce lo racconteranno appunto gli interpreti in scena. Vabbè, un'anticipazione. Parlerà lo spettacolo appunto di quelli che sono i temi legati alla videocrazia così contemporanea in questo periodo, e quindi in un certo senso la figura di Pinocchio che è a termine rispetto a quelle che sono le credenze proposte dalla sua figura stessa. In scena avremo Giacomo Guarneri, che come dicevo è il direttore della compagnia e anche l'autore e il regista dello spettacolo, Domenico Sordi, Mauro Terranova e Egidio La Rocca. Ecco, poi abbiamo Patri i Famiglia, sì, giusto? Il titolo è in dialetto siciliano. Sì, infatti io col siciliano. Patri i Famiglia è il titolo, l'espressione corretta, che è presentato dal Teatro Vittorio Emanuele di Messina e dalla Compagnia Castello di Sancho Panza. Un apologo sul senso di desolazione e di sradicamento vissuto da una generazione che non riesce ad assumersi la responsabilità più delicata, in questo caso quella della cura paterna dei propri cari, del proprio tempo. In scena ci saranno tre attori che interpretano tre cugini. In dialetto messinese, no? Cioè, sì, in dialetto messinese. Messina in questi anni naturalmente diventava anche un po' il centro della nuova drammaturgia siciliana, con alcune figure di spicco, e vorrei citare a tal proposito Spiro Scimone e Francesco Sframedi, che hanno avuto in questi anni un grande successo sia in Italia ma soprattutto all'estero, in Francia, dove sono davvero acclamati. Poi ci sono Le Mille Bolle Blu, venerdì, sì, 5 agosto, all'inizio degli anni 60, in una bottega da barbiere nasce Sidipana, la storia d'amore struggente e clandestina fra Nardino ed Emanuele. Venerdì appunto abbiamo il piacere di ospitare questo spettacolo che abbiamo inseguito per 2 anni, proposto da Filippo Luno, da un racconto di Salvatore Rizzo. Uno spettacolo molto delicato, che appunto tratta un tema importante come quello dell'omosessualità in Sicilia negli anni 60. E Filippo Luna per questo spettacolo è stato premiato appunto dall'Associazione Nazionale Critici Teatrali nel 2010 appunto per l'interpretazione, e in giro per l'Italia ha avuto importanti consensi appunto per la sua interpretazione. Poi abbiamo Ferro Vecchio, un vagabondo che trascorre sentieri interminabili, un barbiere ridotto alla rovina, insomma due individui ai margini in una Sicilia fuori dal tempo. Noi la Sicilia ce la immaginiamo sempre un po' fuori dal tempo, forse un po' pirandelliana. Sì, anche se bisogna dire che poi dopo questa immagine un po' stereotipo si capovolge in qualcosa di molto moderno e contemporaneo. Proprio per questo, in occasione di questa edizione del nostro festival, noi abbiamo insistito nell'esplorazione di quanto di più interessante appunto propone la nuova scena teatrale siciliana, che è anche un po' lo specchio di quello che succede nella nostra terra, che, come i radioascoltatori sapranno, è una terra di contraddizioni tra bellezza e la durezza appunto delle problematiche note. C'è un Orlando furioso raccontato dal mago Atlante, ecco, per questo poi citavo Ludovico Ariosto. Questo è un pochino uno spettacolo particolare. Sì, anche questo è uno spettacolo interessante, onirico, particolare, proposto da Alberto Nicolino, che è appunto un autore, cantautore siciliano, che presenterà questa rivisitazione dell'Orlando furioso, ma in questa occasione raccontato appunto dal mago Atlante. Un modo per accorgersi appunto delle traversie dell'Orlando furioso raccontate in modo inedito e anche un po' tragicomico. Alberto Nicolino sarà da solo in scena, ma interpreterà diversi personaggi appunto con dei cambiamenti di costume semplici. Allora, e poi c'è Turi Marionetta, qui proprio andiamo nella sicilianità, no? Il teatro di figura. Ecco, di che cosa parla questo spettacolo? Sì, la rassegna si concluderà appunto lunedì 8 agosto con lo spettacolo Turi Marionetta, proposto da Savi Manna, che è un giovane autore e regista siciliano che ha approfondito in questi anni il suo lavoro di ricerca sul teatro di figura. Quindi interpreta questo personaggio che racconta la propria vita, ma anche la vita del teatro di figura siciliano, quello tipico appunto della marionetta ed esattamente del pupo siciliano. Uno spettacolo anche questo interessante e piacevole, che non mancherà di sorprendere i nostri spettatori, che a dispetto dell'assenza delle istituzioni invece ci seguono con molto affetto e molta attenzione. Fabio, allora questa drammaturgia siciliana è molto viva, quindi sull'onda però della tradizione di pirandelliana voi continuate a cercare talenti. Sì, assolutamente, insomma devo dire che in questi anni abbiamo fatto di necessità virtù, nel senso che non potendo disporre di significativi contributi da parte degli enti pubblici, in questo caso della regione, della provincia di Catania, abbiamo quindi un po' scandagliato quello che è il territorio teatrale siciliano, e devo dire con importanti e significativi risultati. Teatri in città dal 3 all'8 agosto a Caltagirone, e tutti gli spettacoli sono alle ore 21. Dove esattamente, Fabio? Sì, a Villa Patti, un parco comunale di particolare bellezza, che quindi offrirà una cornice adatta alla nostra rassegna. Grazie infinite. Grazie a voi, buon lavoro. Summertime. Eh sì, tanto caro mi fu quest'Ermo Colle, è la poesia italiana per eccellenza, quella che attraverso questa siepe, come diceva Leopardi, ci porta a pensare all'infinito. All'infinito anche poetico musicale di un palio, quello lì che si svolge tra Parma e altre province, proprio arrivato alla 10ª edizione, che si rifà al verso di Leopardi. Noi diamo il benvenuto ad Adriano Engelbrecht, il direttore artistico, e gli chiediamo questa rassegna, prima di tutto dove si svolge e che cosa succederà questa sera. Sì, salve, buongiorno a tutti quanti. Questa rassegna si svolge nella provincia di Parma, in particolar modo sull'Appennino, che è stata anche diciamo la patria poetica di un nostro grande concittadino, penso a Bertolucci con questo. È un palio che compie dieci anni, prende il nome dal verso ovviamente leopardiano, ma che ha come tema guida generico per questi 3 anni di progetto un verso di Mario Luzzi che è "Dove mi porti mia arpa?". Ecco, su questa domanda che questo grande poeta ci ha rivolto, noi stiamo riflettendo, e su questo riflettiamo in posti dell'Appennino parmense bellissimi, come delle corti, dei castelli, dei laghi, dei siti naturalistici che vengono proprio rivissuti attraverso degli spettacoli, delle letture, dei concerti. Io vedo ricercare d'astri ancora di storie, per esempio, esatto. Questa sera a Lagdei. Questa sera a Lagdei si svolge questa cosa molto particolare, in realtà è una camminata notturna che avviene ai piedi di un lago tra i boschi con un'astrofisica e con un mitologo, per cui a leggere insieme a loro le costellazioni, questa volta stellata a più di 1000 metri di altezza, e con la musica di un violino che accompagna le persone in questa camminata tra i boschi, per cui Ermo Colle proprio è questo attraversamento dei luoghi con la poesia. E poi invece vedo anche l'8 agosto a Rocca Ferrara privatamente. Sì, anche questo qui, un paesino straordinariamente come solo alcune province sanno offrire, un paese abbarbicato a più di 1000 metri d'altezza, dove siamo stati già ospiti anche l'anno scorso, veramente in un clima festivo, nonostante la difficoltà di arrivare in questo posto, per dire semplicemente che le persone vengono portate su in trattore da tanto che è impervio. Un altro evento di Ermo Colle Teatro, la compagnia che accompagna con degli eventi tutto il taglio e che propone proprio l'attraversamento di tante figure femminili poetiche, figure della tragedia, per cui una sorta di monologo che attraversa un po' la storia del teatro. Poi io vedo che fate proprio delle sfide tra compagnie, cioè tipo esatto. Gli sbandieratori, allora il 10, sì. l'11 e il 12 agosto c'è una sfida tra varie esatto. compagnie che presentano i loro lavori. Esatto, infatti l'ho sempre nominato, diciamo che è il palio più piccolo del mondo, è anche però uno dei più seguiti, nel senso che realmente ogni anno Ermo Colle bandisce un bando di concorso dove le compagnie possono iscriversi, ne vengono selezionate 6 a livello nazionale, ma a volte come l'anno scorso anche a livello europeo, e ci si disputa realmente un premio che è quello del pubblico, nel senso che il pubblico quindi non è solo chiamato a partecipare in maniera passiva come spettatore, ma alla fine può proprio votare, e quindi c'è questo premio del pubblico e un premio della critica fatto appunto da una giuria che è composta da musicisti, critici teatrali, organizzatori di eventi poetici, e che assegnerà anche un premio della critica. Quindi una gara vera e propria in cui le 6 compagnie che si disputano il premio, però solo 2 avranno la vincita finale. Ecco, quest'anno avete scelto un tema particolare oppure scegliete solo i lavori che vi piacciono? No, noi appunto, partendo da questo bellissimo verso di Mario Luzzi, il tema di quest'anno è attraversando. Siamo partiti l'anno scorso con il tema partendo e concluderemo il progetto triennale l'anno prossimo con ritornando. Quindi diciamo che la ciclicità di questa domanda "dove mi porti mia arte" sancisce ogni anno un tema, e in base a quel tema scegliamo anche il lavoro delle compagnie. Quindi diciamo è un viaggio nell'anima, perché se si parte, si attraversa e poi si ritorna, e questo è quello che l'arte porta, certo, a questo, certo, a un viaggio dell'anima. E questo attraversando, c'è qualcosa di particolare quest'anno che l'ha colpita? Beh, devo dire innanzitutto, diciamo che quello che cerchiamo di fare e che ci colpisce è riuscire a parlare poi tematicamente attraverso le arti di questo tema. Non so, ci sarà domani l'incontro con Michela Murcia, per esempio, che è la vincitrice appunto del premio Campiello dell'anno scorso. Io penso che con questo suo romanzo, con l'Accabadora, affronteremo questa questione dell'attraversare in maniera specifica il passaggio dalla vita alla morte, oppure attraverso gli artisti anche che inaugureranno la loro mostra nella splendida cornice del castello di Torre Chiara. Per cui diciamo quello che ci colpisce è soprattutto quello che gli artisti ci offrono, lo spunto di riflessione, e con loro rifletteremo insieme a loro con il pubblico. Allora, fino a quando c'è, diciamo così, il festival? Il festival è partito il 1° di agosto, andiamo avanti fino al 13 tutte le sere, e per chi volesse consultare il programma abbiamo un sito che è www.ermocolle.eu e può trovare il programma completo di tutte le serate. Noi allora ringraziamo Adriano Engelbrecht e ricordiamo che Ermocolle offrirà tantissime occasioni per riflettere. Dove mi porti, mia arte, no? Con questo verso sullo sfondo. Grazie infinite. Grazie a voi e a tutti. E adesso andiamo a Valderice, a Castellammare del Golfo, dove l'associazione Musicus presenta uno spettacolo multimediale un po' particolare, basato sulla cavalleria rusticana. Ne parliamo con Adolfo Viscardi. Buongiorno. Buongiorno a lei. Che cosa succede? Che cos'è questa cavalleria rusticana che viene messa in viene praticamente rappresentata in una chiesa con uno schermo su cui scorrono anche spezzoni di film girati un po' nella Sicilia del dopoguerra? Ci vuole spiegare meglio? Perché si incrocia l'opera di Pietro Mascagni con l'immagine della Sicilia del dopoguerra. Ma diciamo, premesso che lo spettacolo sarà presentato sia a Valdeci, a Castellammare, nella Uluno, in un anfiteatro, quindi all'aperto, non in chiesa, e l'altro in l'anfiteatro delle Rose, che è a Castellammare. Allora, l'idea di mettere insieme un'opera lirica con un canto popolare della Sicilia è stata per me un'idea per un progetto che ha etichettato tutto Sicilia, quindi anche il personale, diciamo, tutto il cast musicale sono siciliani, e l'idea è accostare l'opera con la musica popolare. Quest'opera in effetti anche ci sono degli interventi di vecchi film del dopoguerra della Sicilia, dove è nata in effetti la cinematografia in Italia, e vengono proiettati, chiaramente questi frammenti di film hanno attinenza non all'opera, ma alla tragedia, alle caratteristiche siciliane. E quindi in effetti quest'opera, la Cavalleria Rusticana, sarà anche poi con delle suggestioni di colori, di visive, e l'opera è integrale. Questo è un po' l'assieme di questa serata. Allora, intanto diciamo che la Cavalleria Rusticana ovviamente è un'opera ambientata in Sicilia, dove i protagonisti sono Santuzza e Turiddu, quindi qui ci sta tutta. Dopodiché c'è una seconda parte, dopo l'opera di Pietro Mascagni, che è comunque un'opera breve, compositore peraltro livornese, c'è una seconda parte che voi fate, che è La Vuci Mia, suite etnocameratistica, di canzoni popolari con la cantante Laura Mollica, quindi insomma tra cui c'è una popolarissima, io leggo, Amuri Caddinotti, mi scusi l'accento un po' romanesco, ecco. Ma no, non a caso, proprio per rendere questo spettacolo, che normalmente la cavalleria si fa con i pagliacci, sono due opere diverse. Ecco, era questo che volevo dire. Voi avete unito opera a canti popolari, questa è stata un po' la genialata. È un miscuglio, diciamo, di due situazioni che vanno così bene, che ancora oggi, dopo io la prima l'ho fatta, è stata fatta in Campania, insomma, come la prima in assoluta, ma diciamo è un'idea che è rappresentare veramente su tutte le sfaccettature questa Sicilia che è carica ed è piena di cultura e di passato, per cui insomma è proponibile proprio per dare, etichettandola proprio come l'espressione della Sicilia. E lei dice che i temi sono passione, tradimento e fatalità. Esatto. E questo lo ritroverà in particolar modo in tutti, in tutte le canzoni che sono state visitate da Giuseppe Greco, in effetti è musicista insieme a Laura Mollica, che è questa grandissima cantante, è più riconosciuto grande all'estero che nella propria città, nella propria regione. E vabbè, ma questo è normale, per gli italiani è così, è sempre. È un copione. Senta, ma perché una Sicilia uguale ai sud di tutto il mondo? Quindi voi vi sentite parte del sud di tutto il mondo? No, perché non, molte volte si etichetta la Sicilia come un fatto del sud, ma il sud, diciamo, anche per la questione climatica, in tutto quello che è il mondo, è più o meno ha le stesse caratteristiche, perché secondo me il sud proprio si differisce un po' dalla parte settentrionale di ogni nazione, perché diciamo nasce in un modo diverso, cresce in un modo diverso, ha una passionalità diversa, per cui in tutte le cose del sud c'è una caratteristica che unisce tutti i sud, e allora anche il sud della Sicilia è una storia che si ripete in tutti i sud. Allora ricordiamo che al Valderi c'è oggi alle 21:30 nell'anfiteatro Nino Croce, poi venerdì 5 agosto all'Arena delle Rose di Castellammare del Golfo alle 21 questa operazione dell'associazione Musicus, che vuole unire lirica e musica popolare, quindi la cavalleria rusticana di Pietro Mascagni insieme a Vucimia, suite etnocameristica di canzoni popolari siciliane. Grazie. A lei una buona giornata. Summer Time. E andiamo al Calatafimi Segesta Festival, che ricordiamo è fino al 28 agosto, però oggi noi vogliamo introdurre la favola di Orfeo, e uno spettacolo di Agnolo Polizzano, e questo spettacolo parla proprio dello studio della mente umana, l'Orfeo dei pazzi. È così? Buongiorno. Sì, è così, buongiorno a voi. È così, Agnolo Polizzano è un autore del 400, che scrisse questa opera che sembra essere stata anche musicata. Noi l'abbiamo preso come motivo ispiratore per avere uno spettacolo che attraverso il mito del poeta Orfeo, un mito totalmente mediterraneo, si potesse sposare con questo straordinario scenario che è Segesta e i teatri antichi della Sicilia. Ecco, lei, Aurelio Gatti, è colui che ha scritto questa drammaturgia. Che cosa l'ha ispirato in questo viaggio che c'è nello studio della mente umana? Ma sì, noi l'abbiamo trasformato in uno studio più che sulla mente, sulla memoria umana, perché abbiamo ambientato la favola dell'Orfeo del Poliziano in un ospedale, perché è un ospedale psichiatrico, perché una serie di documenti e di manoscritti racconta come abitudine era per combattere le malinconie e i turbamenti, invitare gli ospiti, i malati di mente di questi ospedali, a esercitarsi in messe in scena. Questa verità storica ci ha suscitato una grande attenzione, come attraverso il teatro si poteva immaginare di poter portare farmaco e sollievo a questi sventurati. E quindi il mito di Orfeo, quindi Orfeo che perde la straordinaria Euridice per un fato e raggiunge l'inferno per portarla con sé di nuovo in vita, e attraverso il canto di Orfeo le belve stesse che si domano, tutto questo altro non è che una metafora di un uomo contemporaneo che deve fare un grande viatico attraverso la lirica e la poesia per ritrovare quella che è la natura proprio dell'uomo. E quindi questo viaggio, come lei ha anticipato, attraverso la mente umana, altro non è che un utilizzare il mito di Orfeo inserito in questo contesto manicomiale per ricordare che alla base di tutto c'è l'uomo in una grande ricerca non del bello, ma proprio dell'essenza, del vivere e della vita. In un linguaggio di teatro, danza e musica, che quindi mischia tre generi. Sì, perché gli artisti in scena sono oltre 16, un ensemble che vede 8 danzatori, 4 cantanti, 3 musicisti, tutta un'esecuzione live di 1 ora e 20, ed è un turbinio. Il grande assente nella drammaturgia, non naturalmente nella messa in scena, è l'Orfeo, perché i pazzi sanno che l'Orfeo dovrà seguire una sorte ingrata, quello di essere dilaniato, e per cui ogni spettacolo l'Orfeo, immaginiamo, che viene scelto di volta in volta come bimbo e quindi come purezza, appunto, un Orfeo, un novello Orfeo, e ci immaginiamo questo bimbo che porta delle vettovaglie, che viene scelto in questa parte. L'appuntamento a che ora è? Alle 9, alle 21? L'appuntamento serale è alle 21, al calar del sole, ed è uno degli appuntamenti a cui teniamo maggiormente, perché il teatro di Segesta ha uno scenario di per sé che meglio restituisce ogni valore della drammaturgia. Ringraziamo allora Aurelio Gatti, ricordiamo al Calatafimi Segesta Festival, provincia di Trapani, abbiamo la fabula di Orfeo con la drammaturgia proprio di Aurelio Gatti e di Ernesto Lama. Grazie. E adesso noi andiamo sul lago di Como, a Lenno, a Villa del Balbianello, per un notturno in Balbianello. E ci spiega che cos'è Luca Chiarini, che è il responsabile di questa manifestazione. Buongiorno Luca. Sì, buongiorno. Di che si tratta? Allora, sono delle serate molto carine e molto interessanti, sono dei doposcena molto raffinati, che terremo per 4 mercoledì di agosto, iniziando da stasera, e sono dei doposcena, quindi si arriverà direttamente in barca, perché la villa è su una delle punte del lago di Como, una posto impareggiabile per la bellezza e per la vista, una villa del Settecento, e appunto si arriverà in barca partendo dal lungo lago di Lenno e si arriverà sul nostro giardino, nel giardino della Villa del Balbianello, e ci sarà della musica. In tutte e 4 le serate cambieremo tipo di musica e sarà possibile poi mangiare e anche bere un drink. Sorseggiare un drink, ma sì, questa musica drink suonata dal vivo, che genere di musica è? Allora, quella di stasera è con la Blue Note Swing Band, e quindi saranno brani di repertorio swing e standard jazz, quindi sarà soprattutto un jazz classico, mentre il mercoledì 10 agosto, proprio per la notte di San Lorenzo, avremo un hot swing trio, quindi sarà un jazz un po' particolare, un jazz manouche, quindi una cosa pochettino più diciamo esotica, quindi sarà questo. Mentre il 17 agosto, sempre di mercoledì, passeremo allo swing e agli evergreen con questo gruppo che si chiama John Swing Project, quindi sarà una musica diciamo un pochettino più classica e più swing. Mentre per finire il 24 agosto passeremo a delle note un pochettino più tradizionali, perché ci sarà la Celtic Harp Orchestra, e quindi saranno brani tradizionali irlandesi, scozzesi e bretoni. Quindi il 24 agosto vi sbizzarrite, mentre mi sembra che il filo conduttore sia swing e jazz per quanto riguarda sì, i primi 3 mercoledì. Perché sì, questa scelta? Che cosa c'entra il lago di Como con questa musica? È una musica che si combina bene, diciamo. No. Sì, si combina bene, perché diciamo il jazz, ma anche la vista del lago con le barche che passano un po' alla grande Gatsby, quindi ci rifacciamo un po' a questo periodo degli anni 30, ed è una cosa molto molto particolare, perché il giardino con il lago e queste note musicali provocano delle sensazioni molto molto molto piacevoli, soprattutto sorseggiando un buon drink. Però ci saranno anche due altre sorprese. Una è perché iniziando proprio da stasera c'è un angolo di osservazioni astronomiche, perché appunto sul lago la notte e la luna e le stelle assumono, come dire, delle tonalità particolari, per cui ci saranno delle telescopi professionali organizzati dall'osservatorio di Sormano, che è vicino Bellagio, per cui ci sarà la possibilità di vedere la luna e le stelle dal nostro giardino. Anche perché tutto questo è organizzato dal FAI, dal Fondo Ambiente Italiano, quindi è un modo per riscoprire i nostri paesaggi. Certo, il FAI è molto attento alle, diciamo, non solo alle nostre proprietà, ma nelle nostre proprietà noi organizziamo per tutto l'anno, ma soprattutto l'estate, degli eventi che sono legati al territorio, all'arte, alla natura e alle bellezze appunto naturali che circondano le nostre proprietà. E infatti non solo a Balbianello, ma anche in altre proprietà del FAI, quindi se i nostri radioascoltatori si trovassero per caso in Sicilia, alla Valle della Colimbetra, da lunedì iniziamo con la musica al tramonto, quindi anche questo è un altro posto bellissimo del FAI in cui si potrà ascoltare la musica sotto gli aranci, quindi un altro ambiente, ma sempre con la piacevolezza della musica e degli aperitivi, che in quel caso saranno degli aperitivi tipicamente siciliani. E la musica, che tipo di musica sarà? La musica sarà molto diversa, perché avremo sì jazz, ma avremo anche musica classica, avremo anche della musica pop, e sarà molto molto più, diciamo, variegata come tipo di musica, quindi ci saranno anche dei piccoli brani d'opera, insomma organizziamo tante piccole serate e sempre però all'insegna della buona musica e della buona cucina, perché in tutti i nostri eventi ci sarà sempre la possibilità di sorseggiare dei buoni vini, dei buoni drink, ma assaggiare invece quelli che sono i prodotti del territorio. E non fa eccezione anche un'altra proprietà del FAI, che è Villa Gregoriana, che è a Tivoli, quindi vicino Roma, che per tutta l'estate, tutti sabato, ci saranno Orride e Sublime. Sono delle visite al tramonto con una lettura di brani di visitatori che hanno visto il parco nel corso dei secoli, e alla fine ci sarà la possibilità di un aperitivo tra i templi dell'Acropoli Tiburtina, quindi anche lì i prodotti saranno quelli della zona appunto di Tivoli e dintorni. Quindi bisogna entrare dentro il vostro sito per sapere quali sono le vostre iniziative in tutta Italia, che cosa suggerisce ai nostri radioascoltatori? Allora io direi innanzitutto di entrare nel nostro sito, che è appunto www.fondoambiente.it, e c'è una sezione proprio dedicata agli incontri nelle proprietà del FAI, e lì si trovano tutte le informazioni sugli eventi, sugli orari, sulle prenotazioni in caso di prenotazione, perché in alcuni casi è meglio prenotare, quindi ci sono tutte le informazioni possibili. Intanto noi ricordiamo l'appuntamento sul lago di Como ogni mercoledì per tutto agosto alle ore 21 per prendere una barca e sognare nelle atmosfere di Fitzgerald. Grazie a Luca Chiarini, responsabile delle manifestazioni del FAI. Grazie infinite. Benissimo, grazie a voi, arrivederci. E anche per oggi è tutto, vi ricordo che ci potete scrivere a summertime@radio24.it. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia, Gloria Guerrera in redazione, l'appuntamento è a domani.